La 20th Century Cosenza, in collaborazione con la Casa Circondariale e la Toons Production, presenta le avventure di Giovanni e Nicola. Giovanni e Nicola, dopo aver incassato i soldi dall'ultima rapina, decidono di andare ad abbuffarsi in un tipico ristorante locale. Giova! Sa settimana ne è chiuta proprio buona, madame! E era così sordo, sai che regalo ci faccia a Maria Sonda, Nico? Ancora così giota, ma tu, oi Giovanni? Oi, cosa come si dice, quando c'è l'amore c'è tutto. Sì, quando c'è salute c'è tutto. Comunque, andiamo, mangiamo stasera, andiamo nene, Mo vedi, ma aspetta. Io mi hanno fatto, ma l'ha consigliato un amico mio, ci potremmo dietro. Ma, un pochino proprio che era un amico tuo. Per proprio per essere più positivo che ho temesto. No, ma ti sbagli, è uno nuovo. Chi se me li uzzo i Santa Fe? O frate i genuzzi? Caperai, è la stessa razza! Dopo aver deciso, i due si appropingono verso la trattoria il Piacuraro. Giovanni, ma sei sicuro che ogni durano una crapa croprisce? Tranquillo, oi Nico, ne facciamo una panza con un po' di spesa stasera. Camere, non posto, ecco! Camere, oh! Oh, che cazzo vedi? Mentre tuo coso, padrò! Oh, ma che cazzo te ne chi su con noi? Non ti preoccupare che è una gattesca del locale, chissà. Ah, capito! Allora, ci sono roccolina per sazienza e pasta china. Ah, gamba, porta tutto, non ti preoccupare, teniamo ci sono dei balloscone stasera, va. Alla fine della cena i due si accorgono malauguratamente di aver lasciato i soldi a casa. Era miseria, Nico, mi sa che scessero mai scordo portafoglio a casa. Tu tieni anche una cosa presso. E che ti niente ne cinghera presso. Come ci diceva, Nico? Ci portiamo domani. Come cazzo mi fa a pagare che su che io non lo saggio? Ogni anno mi sembra. Camera, ti hanno cingato, i prossimi ti porto domani, domani ti porto dentro che ti porto domani! Curro con lui, ci virà, pestatizza, ma che sei marito! Che sei loco, che sei un fidanzato di Maria Assunta, via la madosca! Buono duo, cavo duo! Diciamo sempre, non è la madosca. Le avventure di Giovanni e Nicola è stato presentato da Casa Circondariale di Cosenza, Toons Production e 20 Century Fox. Le potete trovare nei peggiori vicoli, nei peggiori bordelli di Cosenza e dintorni.